che invece presentava l'identità italiana, c'erano delle camicie nere anche, eccetera. E io ho registrato questi tre discorsi, li ho messi insieme in un pezzo per questa rivista, ed era molto, diciamo, una volta messi insieme era molto interessante vedere, no, questo conflitto tra identità, dove c'erano le bandiere bruciate. Nel caso della manifestazione della Lega Meridionale, avevano bruciato una bandiera padana. Nel caso della cosa della Lega Nord, c'era stata questa controversia su questa signora che aveva esposto il tricolore dietro il palco di Bossi. Ecco, no, quello che era interessante è che veniva fuori una specie di sacralizzazione, di ritorno alla sacralizzazione della politica legata a un'idea della nazione, no? O dell'identità collettiva, in ogni caso, ma anche il Chiapas potrebbe essere una nazione, diciamo, in un certo senso, e c'è l'importanza delle bandiere e anche un modello sostanzialmente risorgimentale, della politica per via delle camicie verdi, per via dell'inno nazionale, no? Dell'inno va pensiero, e poi c'erano tutti i canti anche di questo tenore. Ecco, proprio perché, diciamo così, per via di questa idea che tutte le fonti sono intrise fortemente di soggettività, io credo che sia possibile anche fare una storia del tempo presente, raccogliere documentazione del tempo presente, proprio perché è legittimo attraverso, diciamo, ovviamente gli strumenti critici. Ovviamente bisogna, diciamo, fare di non imbrogliare, no? Cioè essere chiari su quello perché si è fatta la ricerca, che cosa, cioè rendere trasparente tutto il processo, perché altrimenti no, non si dà al lettore la possibilità di decostruire e di criticare, no? Quello che faccio. Questa è la differenza fondamentale, credo, tra uno scritto di Indro Montanelli e quello di uno storico. È che tu, Indro Montanelli, puoi amarlo o odiarlo, perché lui dice delle cose che o ti fidi o non ti fidi. Cioè, dice Andreotti, il 28 gennaio ha detto questo. Sì, ma come si fa a sapere? Cioè, lo dice lui, lo dice Montanelli, ma non è che ci dice, l'ho trovato su questa fonte, potete andare a controllare. No, non ci consente di andare a controllare, di mettere in dubbio. Allora, o accettiamo e ci fidiamo, oppure lo odiamo perché non ci fidiamo, e perché non siamo d'accordo. Ma invece il lavoro dello storico deve essere trasparente, questo lo si può fare o si può tentare di farlo anche, diciamo, per delle cose molto più recenti. E credo che da questo punto di vista sia molto interessante applicare l'occhio storico con serietà e rigore anche su cose del presente. E questo può avere anche dei risultati di grande successo nelle scuole, perché è un modo, partire dal presente, perché poi si può partire, ma per arrivare anche molto indietro, di legare meglio, diciamo così, gli studenti, di farli sentire più vicino, diciamo così, il passato, perché gli si dice, guarda che, cioè, il passato è nel presente, no? Grazie. Saggio divertente, pubblicato forse sui viaggi di Erodoto o forse su altro che Vestre, di storia e sociologia delle taverne. Per taverne si intendono in questo caso, avete presente queste case a schiera che ormai caratterizzano il Lombardo-Veneto, no? Da Mestre fino a Torino, insomma, no? Queste case a lotti, no? Si compra un quarto, metà o la villetta monofamiliare. Insomma, queste villette sono tutte uguali praticamente, sono sempre da taverna. E nella taverna c'è un po' la ricostruzione, no? Della storia passata, c'è il paiolo di rame, cose di questo tipo. Luca ha fatto un saggio bellissimo appunto sulle trasformazioni del territorio del Lombardo-Veneto attraverso l'analisi di queste taverne. Parlando attraverso le interviste, pubblicato, io l'ho letto sui viaggi di Erodoto, può essere, ecco, o altro che Mestre, sui viaggi di Erodoto. Per quanto riguarda la simbologia, appunto, lui citava queste manifestazioni della Lega, no? Che appunto sono interessanti proprio perché riproducono in piccolo quello che gli stati nazionali hanno fatto nell'Ottocento, nel Settecento, no? Cioè sacralizzano la politica. Si vede la politica come la gente che porta avanti il destino, no? Il destino che è già scritto in qualche modo in ognuno di noi, cioè le entità nazionali che vengono rese delle entità biologiche quasi, insomma, no? Per cui vi ricordate appunto queste manifestazioni, no? I leghisti che hanno preso l'acqua del Po alla sorgente, l'hanno messa nell'ampolla, poi l'hanno portata giù a Venezia, l'hanno versata nel mare e cose di questo tipo, no? Ecco, parlando di simbologia e di storia locale, il Monumento alla Vittoria che vi ho appena fatto vedere, che voi tutti ben conoscete, quando hanno posato la prima pietra del Monumento alla Vittoria, il 12 luglio del 26, non a caso il 12 luglio perché era l'anniversario della morte di Cesare Battisti, 12 luglio del 26, quindi nel decimo anniversario, La posa della prima pietra, la cazzuola, era dell'argento. E questo argento era stato fatto fondendo 200 monete austriache. Capito? La cazzuola con la quale era fatta fondendo 200 monete austriache. L'acqua era quella del Piave, fiume sacro alla patria, e il sasso era un sasso del Montello. Ecco, il luogo in cui hanno costruito questo monumento era il luogo in cui gli austriaci 10 anni prima avevano cominciato a costruire il monumento alla loro vittoria. Poi dopo la storia è andata come è andata, così. Però vedete che di simbolismo è pieno il mondo, anzi soprattutto è pieno l'Ottocento e il Novecento, vedremo poi il XXI secolo se seguirà queste cose. Ivo Mattozzi per la relazione sulla didattica della storia locale. Grazie, buonasera e grazie per il 94 era quella la data di quel convegno documentato in quel libro e quindi è un decennale. Ecco, allora, quindi mi fa piacere di celebrare il decennale delle mie ricerche qui. Che cosa è successo nel frattempo? Dunque, io abito a Venezia, sono abruzzese, abito a Venezia con la famiglia, insegno a Bologna, quindi sono un apolide, sto molto sui treni, vengo spesso in Alto Adige e mi occupo di storia locale con molta passione. Che cosa è successo nel frattempo? Noi avevamo, noi, quando dico noi intendo io e un gruppo di insegnanti veneti, tra cui Piero Bello, che è amico di Luca Pese e di Giorgio delle Donne, eccetera, abbiamo cominciato a parlare di la necessità di insegnare agli studenti la storia locale molti anni prima, e abbiamo seguitato a cercare a fare i missionari su questo tra gli infedeli che sono gli insegnanti. Gli insegnanti che generalmente sono infedeli perché insegnano in terre in cui sono immigrati e di cui non vogliono interessarsi, di cui non vogliono, della cui storia non vogliono interessarsi generalmente, no? E abbiamo cercato di elaborare anche tutta una serie di materiali, anche di proposte di insegnamento della storia locale per fare in modo che i giovani uscissero dalle scuole con un'idea di come la storia è importante conoscerla anche a livello del territorio in cui si vive quotidianamente, in cui si svolge la propria esistenza. Recentemente però, appunto 4 anni fa, la Lega si è appropriata di questo cavallo di battaglia, cioè della storia locale, e ne ha fatto, ed essendosi appropriata anche appropriata per ragioni elettorali, del governo regionale e dell'assessorato all'identità veneta, perché l'assessorato della regione Veneto che si occupa di istruzione, di cultura, eccetera, si chiama assessorato all'identità veneta. Ha cominciato a spingere verso l'insegnamento della storia locale, ma con intenzioni molto diverse da quelle che avevamo noi, perché ha voluto fare della storia locale il mezzo per fondare o rifondare o rinforzare l'identità dei veneti, e per questa ragione subito si sono verificate le proposte di falsificazione della storia locale, della storia regionale del Veneto. Una delle falsificazioni, per esempio, è quella di pensare che la storia della Repubblica di Venezia sia la storia di tutti i veneti, no? Come dire, che la storia della grandezza della Repubblica di Venezia sia la storia anche dell'ultimo contadino dell'ultima valle delle Dolomiti bellunesi o cadorine, eccetera, eccetera. La cosa non è così, perché per esempio la storia della Repubblica di Venezia è una storia di dominante, la città dominante, e di dominati, i luoghi dominati, cioè le città di terraferma, le comunità di villaggio, le comunità contadine che venivano dominate dalla Repubblica, che venivano sfruttate nelle loro risorse dai dominatori veneziani. Quindi non è possibile dare una rappresentazione così armoniosa dello Stato veneziano. Allora, gli storici hanno studiato con un minimo di serietà professionale queste cose, hanno messo in evidenza questo. Per l'assessorato all'identità veneta, invece, nelle scuole dovrebbe essere insegnata una storia che è tutt'altra cosa da quella che nei libri degli storici si può leggere. Ecco, questo ci ha messo in difficoltà perché sembrava che noi che avevamo in mente di far conoscere la storia locale ai ragazzi che frequentavano le scuole, per esempio le scuole, gli istituti professionali per l'agricoltura, di fargli conoscere l'agricoltura del Veneto, la storia dell'agricoltura in Veneto, no? Oppure agli studenti dell'istituzione del Veneto sia avvenuta in un certo modo, o la storia dell'emigrazione dal Veneto verso le altre regioni, eccetera, eccetera. Volevamo che questa storia venisse fatta in maniera seria e rispondente, come dire, ai criteri metodologici, per quanto possibile rigorosi, della storiografia seria, cioè della storia degli storici. Ci siamo visti, scavalcati da questa ideologia leghista, appunto, che vuole fare della storia, che è un po' come quello che il fascismo ha fatto, ma tutti i regimi o tutti i governi hanno fatto con la storia nazionale, per cercare di costruire attraverso i libri di scuola di storia nazionale un'identità omogenea, uniforme, non so, al suddito o al cittadino napoletano che è vissuto nel Regno di Napoli e che ha avuto una storia particolare, oppure, se volete, qui ai sudtirolesi, ai quali si imponeva di imparare la storia italiana durante il fascismo come se fosse la loro storia, o per instillare nella mente dei bambini un passato che non era quello dei loro antenati, della loro terra, eccetera, eccetera. Insomma, questa è una cosa. Allora, questa è uno dei problemi. Dopo 10 anni noi ci troviamo a fare i conti con questa distorsione dell'idea che insegnare storia locale sia una buona cosa per la formazione civica dei nostri studenti. Ma io credo che non possiamo lasciare a chi vuole fare uso dell'insegnamento della storia locale, un uso distorto della storia locale, deformato, non possiamo cedere e arretrare e dire facciamo la storia generale o la storia nazionale e lasciamo che loro si occupino della storia locale. Non possiamo assolutamente permetterci questo lusso. Oggi noi abbiamo bisogno di formare studenti che attraverso lo studio della storia abbiano una capacità di essere cittadini capaci di partecipare in pieno alla vita del proprio alla vita politica, amministrativa del territorio in cui vivono, in cui si svolge la loro esistenza quotidiana, ma anche cittadini che siano capaci di capire la storia nazionale e di partecipare alla storia nazionale, di criticare i discorsi dei politici o di analizzarli e di saperli e di saper reagire ai discorsi dei politici, così come abbiamo bisogno dello stesso cittadino che, oltre ad a saper vivere consapevolmente nel suo territorio, nel territorio in rapporto col territorio italiano, con la politica nazionale, con gli eventi nazionali, sappia anche però reagire alla storia che si svolge a scala mondiale. Cioè, no, insomma, mentre io sono cittadino di Venezia, perché vivo e ho la residenza a Venezia, e quindi mi importa molto di sapere quello che succede a Venezia e come la vita amministrativa decide del futuro della città, eccetera, eccetera, mi importa molto di quello che fa il governo Berlusconi, delle sue scelte, o di quello che fanno i partiti di centrosinistra o di sinistra e via di seguito, e quindi dei movimenti o della Fiat di Melfi o della, del fallimento della Parmalat, eccetera, eccetera, e mi importa molto di quello che avviene a livello mondiale. E quindi mi interessa molto di quello che avviene per le scelte di chi domina oggi il mondo, cioè di Bush, eccetera. Quindi, allora, da questo punto di vista, io ho bisogno, per intervenire, per poter prendere le distanze, per poter prendere partito, cioè partito nel senso di poter prendere decisioni, eccetera, eccetera, non soltanto di conoscere gli eventi e la storia che si sta svolgendo nel nostro presente, ma ho bisogno anche di conoscere da una parte il passato, almeno una quota, diciamo, della storia, e della storia che riguarda il locale, cioè che riguarda il territorio nel quale sto vivendo, la nazione, che riguarda quindi l'Italia, e quella che riguarda il mondo. Cioè, io ho bisogno di tutte queste dimensioni nella mia cultura storica per poter reagire in maniera consapevole a quello che succede nel mondo. Perché quello che succede nel mondo, ripeto, succede a livello, a scala mondiale, ma si scarica immediatamente sulla scala locale, ma succede poi a scala locale, e questo ha un incastro con le altre dimensioni e via di seguito. Mi pare una cosa abbastanza banale dirlo, rimarcarlo, no? Però non è banale né per gli insegnanti né per i governanti. Non so se avete fatto caso alla battuta con cui Berlusconi ha commentato l'apertura ad altri 10 paesi dell'Unione Europea il 1 maggio. Lui ha detto: ah, questo è un evento che entrerà nei libri di storia. Cioè, l'idea è che nei libri di storia ci siano soltanto eventi positivi, perché quello voleva essere, no, un evento positivo, e l'idea che nei libri di storia entri soltanto ciò che succede a scala, in questo caso continentale. No? Questa è la questione. Probabilmente Berlusconi lo dice perché vuole entrare anche lui nei libri di storia, ma sicuramente ci entrerà. La questione è che non si sa se ci entrerà con una buona o cattiva fama, come questa dipende dalla storia futura. Il problema, appunto, non è questo, però. Il problema è pensare che noi abbiamo bisogno necessariamente di, cioè necessariamente vuol dire per dare una personalità capace di vivere a proprio agio nel proprio territorio, abbiamo bisogno di formare anche cultura di storia a scala locale. Allora, io non ripeto alcune cose dette da Luca Pessa a proposito della storia a scala locale. Logicamente anch'io sono contro le storie a scala locale usate ideologicamente, l'ho fatto capire, mentre non vedo una contrapposizione tra storia locale e storia generale. Diciamo che la storia generale è quella che abbiamo studiato nelle scuole, con i manuali. Io dico che quella è sempre cattiva storia, è una cattiva storia. Io ho studiato su manuali che erano appena riverniciati del fascismo, ma appena riverniciati per renderli commestibili nell'Italia repubblicana. Poi ho studiato anche su manuali di sinistra, come quelli di Saitta e di Spini, e poi ho seguitato anche a studiare su altri manuali. Ma la storia non è quella dei manuali. I manuali sono dei sottoprodotti scritti per le scuole, per gli studenti, scritti più o meno come dire, professionisti. Possono essere scritti da professionisti, specialmente quelli delle scuole secondarie superiori, però nessun professionista si sente capace di rivendicare, non so, Saitta, Spini o chi altri, Villari, eccetera, eccetera, di rivendicare quelle storie come se fossero storie scientificamente convalidate e di cui essere orgogliosi. Allora, il problema non è tanto storia generale, storia locale. Il problema è che gli storici scrivono storie a diverse scale spaziali per costruire delle conoscenze che hanno una loro validità finché qualcuno non le mette in crisi, in discussione, eccetera, eccetera. E da questo punto di vista tutte le scale sono presenti, cioè ci sono storici che si occupano di questioni a scala nazionale, storici che si occupano di questioni a scala regionale o subregionale. Non so, io conosco i libri di Giorgio Delle Donne, che si è occupato di storia dell'Alto Adige per l'età contemporanea. Conosco i libri di Albertoni, che adesso insegna a Bologna. No, il ricercatore a Trento. Di nuovo è passato a Trento, non sapevo, è a Trento. Che ha scritto un libro di storia medievale sul Principato Vescovile, sulla nascita del Principato Vescovile di Bressanone, le terre del Vescovo, no? E ci sono storici che si occupano addirittura di storie a scala europea oppure di storie a scala mondiale. Nella possibilità di ricerca degli storici tutte le scale sono contemplate. Dalla microstoria a cui faceva riferimento Luca Pes, alla storia, alla scala più grande, che è quella, la scala di osservazione, che è quella planetaria. Allora, la storia locale diciamo, non ha niente, non ha complessi di inferiorità rispetto a tutte le altre storie, perché la storia, come si diceva poco fa, la scala locale può essere quella più opportuna per capire certi fenomeni, che non si capirebbero se uno guarda le cose da troppo in un'area troppo ampia. Questa è la questione. Allora, se questa è la questione, riportare la storia locale, cioè trasferire le conoscenze di storia locale nell'insegnamento, vuol dire non fare qualche cosa che è meno valida delle altre storie, ma è qualche cosa che può servire a far capire agli studenti questioni e fenomeni storici aspetti e processi storici che non potrebbero capire se studiano a scala più ampia. Questa è la questione. Allora, questa cosa è molto importante da recepire, è talmente importante che finalmente, diciamo, anche le indicazioni nazionali future, quelle che verranno messe in pratica a partire dal prossimo anno scolastico, dicono che devono conoscere la storia a scala locale. Ma di più, ho ricevuto proprio in questi giorni un documento di una commissione dell'Unione Europea che ha stabilito quali sono le competenze che dovrebbero avere tutti gli studenti universitari di storia, ovviamente, tutti gli studenti che fanno una laurea che consente poi di insegnare storia in tutte le università europee. Cioè c'è una commissione che cerca di armonizzare le competenze, gli obiettivi di tutte le università europee. Il programma si chiama Tuning e c'è anche un sito, sì, qui si chiama Tuning Competencies. Bene, tra queste competenze c'è scritto che gli studenti, intanto c'è proprio grande la conoscenza della storia locale, no? Questa è una delle cose. L'altra questione è che gli studenti, questi che dovranno uscire dalle università, dovranno avere le competenze alla ricerca storica e le competenze a organizzare, a usare le biblioteche, a usare la bibliografia, a usare le fonti, eccetera, eccetera. Ecco, detto questo, allora vediamo un po', dunque, della necessità e della opportunità e del vantaggio di conoscere aspetti della storia locale, vediamo come si dovrebbe fare questa storia locale. Ma innanzitutto non si dovrebbe fare una storia locale come la storia generale manualistica, cioè dai dinosauri ai giorni nostri, o da Ezio ai giorni nostri. Non ha senso. Non ha senso perché questo comporta una ricostruzione, un'organizzazione delle conoscenze ordinata in maniera cronologica e come un filo che fa pensare che tutti i tempi della storia si siano svolti sempre con la stessa soggetto, con la stessa identità, come se Ezio fosse o su tirolese o italiano da quel tempo, no? Oppure come se nella romanizzazione di queste aree ci fosse stata sempre la stessa popolazione, eccetera, eccetera. Allora, questo non ha senso fare una storia generale. Intanto non c'è tempo per farla in maniera decente. E poi non ha senso perché non è il modo più sensato per formare una buona cultura storica. È soltanto per pompare molte informazioni dentro la mente dei bambini e dei ragazzi, eccetera. Allora, la storia locale va fatto per alcuni temi, a seconda dei tempi che vogliamo, dei periodi che vogliamo, su cui vogliamo far concentrare l'attenzione dei ragazzi e su cui vogliamo far elaborare ai ragazzi una rappresentazione della storia locale. Quindi va fatto per temi. E l'altra questione è che la storia locale non va fatta con la manualistica. Sarebbe, se la manualistica è una cattiva storiografia scolastica, allora facciamo una storia locale che porti i ragazzi a fare i conti con tutte quelle fonti che ci sono, con tutte quelle tracce che della storia locale sono presenti sul territorio. Allora facciamo storia locale con le fonti territoriali, se ci sono siti archeologici, con alcuni siti archeologici, se ci sono castelli, con i castelli o con città medievali, se ci sono altri monumenti di altro tipo, facciamo anche con quei monumenti, eccetera, eccetera. Facciamo storia locale facendo frequentare ai bambini anche degli archivi. Per esempio gli archivi scolastici sono degli archivi interessanti. Facciamo frequentare anche le biblioteche. Ci siamo battuti per fare imparare storia in biblioteca. Cioè abbiamo pubblicato anche un libro da questo punto di vista, proprio per cercare di dire agli insegnanti, guardate, è possibile fare una storia. Qui vedo lo scaffale delle pubblicazioni che riguardano l'Alto Adige, quindi probabilmente se si stabilisce un tema, studenti della scuola secondaria in maniera particolare potrebbero anche abituarsi a consultare quei libri per cercare di capire come organizzare una conoscenza di storia tirolese o di storia altoatesina, eccetera. Ecco, questa è la questione. Allora, a che serve tutto questo? E logicamente ci vuole tutta tutta una metodologia didattica che comporta laboratorio, che comporta operatività, che comporta che l'insegnante non assegni le cose ai ragazzi, ma si faccia carico della guida e della mediazione didattica tra i libri, tra le fonti e le classi. E tutto questo che cosa potrebbe, come potrebbe giovare? Ma potrebbe giovare, per esempio, a far scoprire ai ragazzi che la storia si fa attraverso i beni culturali. Tutto quello che Luca prima enumerava di possibili fonti, eccetera, eccetera, stanno o in archivi o sul territorio o nelle biblioteche o nei monasteri, eccetera, eccetera, stanno, cioè, coincidono con l'insieme che noi diciamo beni culturali o patrimonio. Bene. Se i ragazzi studiano soltanto sui manuali, non hanno idea dei beni culturali, a meno che non sono le famiglie, i genitori e altri che li portano in giro e li fanno vedere delle cose. Se invece studiano usando archivi, biblioteche, fonti territoriali, strutture urbane, eccetera, eccetera, allora cominciano a capire qual è la funzione di fondazione della storia di quei beni culturali, cominciano a vedere il paesaggio come una stratificazione di tracce e di iscrizioni della storia. Questa è una cosa molto bella, perché vuol dire andare in giro e sentirsi a casa, perché si capisce il territorio nel quale si muove. Si capisce dal punto di vista del tempo, no? Il territorio bisogna capirlo dal punto di vista dello spazio, bisogna avere i punti di riferimento, eccetera, bisogna capirlo anche dal punto di vista del tempo. Ma l'altra questione è che i ragazzi, se fanno questo, riescono anche a forse a concepire una immagine del territorio che consente poi di partecipare con più consapevolezza, che so io, al dibattito pubblico, no? Sulla gestione del territorio e sulla gestione dei beni culturali. Dall'altra parte consente probabilmente di farsi le ossa nell'analisi critica dei documenti, e quindi di documenti d'ordine testuale, come i documenti prefettizi a cui si riferiva Luca Pes, ma oppure i documenti dell'archivio scolastico, eccetera, ma anche documenti visivi come quelli territoriali, i monumenti o le architetture, gli edifici, le strutture urbane, eccetera, oppure le strutture agrarie, no? Le strutture, il paesaggio dell'agricoltura. Capire che cosa vuol dire il maso qui in Alto Adige è una delle cose che sarebbe bene che capissero tutti, insomma, no? Questa è una delle, o che cosa ha comportato l'organizzazione per masi della proprietà agricola, eccetera, eccetera. Allora, tutto questo fa dei ragazzi, degli studenti capaci di usare davvero le conoscenze storiche per mettersi in rapporto con il presente e per poter reagire in maniera critica a tutti i discorsi che si fanno sulla storia o sul passato, a quei discorsi terribili, terribili dal punto di vista della serietà che fanno i nostri politici, eccetera, eccetera. Questa è la posta in gioco. Allora, noi dobbiamo batterci perché la storia locale sia una parte della cultura storica degli studenti e che sia una parte seria, rigorosa, per quanto è possibile essere rigorosi nella ricerca storica, della cultura storica degli studenti. Non farne un uso ideologico, non farne un uso a fini di parte. Infatti, c'è anche questa raccomandazione del Consiglio d'Europa che raccomanda di non falsificare i fatti storici e di non fare un uso ideologico della storia e da alcuni canoni. Per esempio, la fissazione su un avvenimento per giustificare o nasconderne un altro. No? Accade quotidianamente. No? La deformazione del passato a fini di propaganda. Una versione del passato suscettibile di creare la dicotomia tra noi e loro. Questa, invece di creare una condivisione del passato, ma noi e loro, quindi creare la base per le avversioni, magari le avversioni etniche, le distorsioni delle fonti storiche, oppure la negazione o l'omissione dei fatti storici. Ecco, io ho ripreso questi meccanismi che vengono utilizzati nella falsificazione delle storie per dire. Queste sono le raccomandazioni emanate nel 2001 sull'insegnamento della storia in Europa nel XXI secolo dal Consiglio d'Europa, ma dovrebbero essere anche raccomandazioni da fare a chi vuole insegnare storia locale. Perché soltanto a questa condizione poi la storia locale produce buona conoscenza e buona cittadinanza. Grazie. Sì, ringrazio Evo Mattozzi, direi che queste cose di cui, queste raccomandazioni qui le abbiamo conosciute proprio tutte, no? Per quanto riguarda la storiografia locale, le abbiamo conosciute tutte le omissioni, le enfatizzazioni, così, le deformazioni, così, il fatto di non ricordare solamente alcune cose e non altre, le abbiamo ricordate tutte e speriamo che questo ci sia di lezione. Che la storia sia maestra di vita, come dicevano una volta. Un altro filone molto interessante che non è preso appunto in queste raccomandazioni che ci ha appena letto Ivo Mattozzi, potrebbe essere anche il rapporto fra storia, memoria, oblio e perdono, no? Ecco, che è una cosa che ho proposto a Valeria come serie di conferenze, ad esempio, penso ai lavori della Commissione del Sudafrica, no? La Commissione per la verità e la riconciliazione, no? Cioè, come rapportarsi con la storia in un territorio dove fino al giorno prima c'erano vittime e carnefici, no? Cosa succede quando le vittime prendono il potere, devono far fuori i vecchi carnefici, devono così, o devono dimenticare tutto. Ecco, lì è stata fatta la scelta, ad esempio, di rielaborare la storia, però avendo ben presente che il fine era quello del perdono, della riconciliazione, no? Pensiamo a questo libro, appunto, Non c'è futuro senza perdono di Tutu, oppure il libro pubblicato dal Manifesto Libri, no? sui lavori di questa commissione, o al recente libro di Paolo Ricore, appunto Memoria, Oblio e Perdono, pubblicato dal Mulino con prefazione di Remo Bodei, no? su questi concetti. Il storico israeliano Yerushalmi. Hanno appena pubblicato poi anche questo libro, l'israeliano e il palestinese, un libro di testo pubblicato a due colonne, praticamente con gli stessi avvenimenti visti dall'israeliano e visto da un palestinese. Ma quello lì è sull'antica Grecia, sulla guerra civile, perché c'era l'obbligo di dimenticare. No? C'era l'obbligo di dimenticare, sì. La dannazione della memoria. Scusami. C'era l'obbligo di dimenticare, non si potevano parlare di certe cose, ricordare. Sì. Mentre ultimamente appunto hanno presentato la rivista Una città giù a Rimini, ha presentato questo libro scritto da un palestinese e un israeliano, un libro con due colonne, praticamente su ogni avvenimento, la visione di due storici. Come sempre abbiamo abbondantemente sforato rispetto ai nostri tempi, come sempre abbiamo la possibilità di fermarci qui al buffet offerto dall'amministrazione di questa biblioteca fino alle 8:30, quindi il dibattito, se mai ci sarà, continuerà davanti alle nostre tartine e davanti ai nostri aperitivi. Però dalle 6 alle 8? Dalle 6 alle 8? Ho paura che ci siano dei vincoli per quanto riguarda... Ecco così. Però lì, cioè, non è che non si discute, si discute sicuramente meglio. È conviviale. Esatto, è più conviviale, e ringraziamo ancora una volta i nostri due relatori, Matozzi e Luca Pes. Grazie.